è importante, è essenziale che si costituisca una elite, la quale in una raccolta intensità definisca, secondo un rigore intellettuale e un'assoluta intransigenza, l'idea in funzione della quale si deve essere uniti, ed affermi questa idea soprattutto nella forma dell'uomo nuovo, dell'uomo dritto fra le rovine, se sarà dato andare oltre a questo periodo di crisi e di ordine vacillante e illusorio, solo a quest'uomo spetterà il futuro. Ma quando anche il destino che il mondo moderno si è creato e che ora sta travolgendolo non dovesse essere contenuto, presto a tali premesse le posizioni interne saranno mantenute. In qualsiasi evenienza, ciò che potrà essere fatto sarà fatto, e apparterremo a quella patria che da nessun nemico potrà mai essere né occupata né distrutta.